Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani e bentrovati a Salva Danaio. Nell'anno nero delle borse, il 2008, che si sta tra l'altro prolungando anche in questa prima parte dell'anno, non sono tutti scappati dal mercato. È vero, molti hanno cercato delle soluzioni per mantenere, in attesa di tempi più sereni, liquido il proprio risparmio. Ieri, per esempio, lo ricorderete, abbiamo parlato dei conti di deposito ad elevata remunerazione. Altri invece hanno cercato le soluzioni per approfittare della volatilità della borsa, che è stata molto intensa negli ultimi mesi. Pensate che c'è qualcuno che è anche riuscito a guadagnare addirittura il 50% puntando sul settore azionario. Adesso tutti calmi, non cominciate a sognare e a mettervi in testa strane idee, non ci sono prodotti miracolosi, ci sono prodotti di investimento intorno ai quali bisogna comunque fare attenzione anche se hanno questa attrattiva. Chi ha ottenuto questi risultati? Sono per esempio quei risparmiatori che hanno scommesso, scusate il termine inglese, sugli ETF short, prodotti della famiglia degli ETF, che sono i fondi indicizzati quotati che scommettono sui ribassi degli indici. Oltre agli ETF c'è anche un'altra categoria di prodotti che sta riscuotendo il consenso di quella massa di risparmiatori che sono usciti dai fondi di investimento andando alla ricerca di alternative. Sono i certificati, che sono simili agli ETF ma in genere hanno una scadenza. Questa è naturalmente una descrizione molto banalizzata di questi prodotti di risparmio e di investimento. Noi stamattina cercheremo di capire come funzionano e a chi si adattano soprattutto. Chi abbiamo con noi? Marcello Kelly, responsabile prodotti quotati di Société Générale in Italia, e Christophe Grosset, responsabile per l'Italia dei prodotti quotati di UniCredit Market ed Investment Banking, che è proprio la divisione del gruppo che si occupa di certificati. Il numero per i vostri interventi e le vostre curiosità sull'argomento è l'800 24 00 24. Ci potete anche scrivere al 349 238 6666. Giornata interessante per la borsa, in ripresa questa mattina, giornata molto interessante a Piazza Affari per i titoli Fiat, ne parleremo fra qualche istante, però prima andiamo a Milano a collegarci con il collega Stefano Totoro, che sta seguendo l'Outlook 2009, lo scenario economico e di mercato per l'anno in corso, organizzato proprio dal gruppo UniCredit. Stefano, buongiorno, chi c'è e soprattutto come viene delineato l'anno che si è appena aperto? Buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori. La presentazione dell'Outlook 2009 si è appena conclusa, ha partecipato Marco Annunziata, Chief Economist di UniCredit, il direttore delle Sole 24 Ore Ferruccio De Bortoli e il professor Francesco Giavazzi, docente di economia politica alla Bocconi. Lo scenario delineato da UniCredit per il 2009 è molto negativo, si prevede, come ormai annunciato da più parti, un anno di recessione globale, recessione negli Stati Uniti con una contrazione del PIL USA pari all'1,5%, una crescita negativa in tutti i paesi industrializzati e una crescita praticamente dimezzata nei mercati emergenti. UniCredit prevede che ad esempio il tasso di crescita della Cina si attesterà attorno al 5% a fronte di un 10% dello scorso anno. Il peggio si sta vedendo in questa prima parte dell'anno, da giugno probabilmente ci sarà una lievissima ripresa e il 2010 sarà un anno di crescita molto basso. Situazione molto difficile negli Stati Uniti, andrà male secondo le previsioni di UniCredit sia il mercato del lavoro sia il mercato azionario, che appunto resterà debole. Allineato a questa tendenza anche il mercato immobiliare statunitense, che secondo quanto detto questa mattina è in caduta libera. Ci aspettiamo che i tassi azzerati dalla Fed, ha detto Marco Annunziata, chief economist di UniCredit, restino a zero. Grande fiducia allo stimolo fiscale annunciato da Obama, ma ci sono dei rischi legati al comportamento dei consumatori statunitensi che, scioccati dalla crisi economica, cercheranno sicuramente di risparmiare. Si è parlato degli Stati Uniti, ma parliamo anche dell'Europa. Anche per il vecchio continente si prospetta una recessione e qui è stato sottolineato un limite per l'Europa, ovvero una forte divisione all'interno del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea fra chi spinge a tenere i tassi bassi e chi invece si muove in direzione contraria. Certo, è un freno alle decisioni che dovrebbero essere, come negli Stati Uniti, più repentine. Per concludere, nell'Outlook di Unicredit non è prevista la deflazione, ma secondo gli economisti qui presenti il rischio esiste ed è legato soprattutto al prezzo delle materie prime, al prezzo del petrolio. Se non c'è una ripresa dei prezzi, appunto, si potrebbe arrivare ad una deflazione. Se non avete altre domande, vi restituisco la linea. No, Stefano, grazie per essere stato con noi. Noi invece andiamo a vedere quello che sta accadendo sui mercati questa mattina, perché la giornata era partita piuttosto bene per i listini del vecchio continente. In netto recupero questa mattina tutti i titoli del settore finanziario, che negli ultimi giorni sono stati di nuovo protagonisti di cali dirompenti, come è accaduto per esempio di nuovo ieri a Londra, dove il titolo Barclays è crollato del 30%. Oggi il gruppo bancario recupera qualcosa, +6, +7%. I veri recuperi però sono messi a segno da Lloyds, +16%, Royal Bank of Scotland, +16%. Bene a Parigi anche Société Générale, BNP Paribas e Crédit Agricole, in rialzo del 7, del 4%. Per quello che riguarda i listini, la giornata era partita molto meglio però complessivamente, con rialzi di oltre 2 punti percentuali. Adesso c'è un rallentamento generale e anche a Piazza Affari stesse indicazioni. S&P MIB +0,7%, il listino di Milano va un po' peggio degli altri, perché c'è questo crollo dei titoli Fiat, -14,55%, dopo la comunicazione dei dati e soprattutto le prospettive indicate per il 2008. C'è una sorta di profit warning, di allarme per il gruppo. Secondo le interpretazioni delle agenzie, Fiat aggiornerà trimestralmente i mercati finanziari sulle previsioni del 2008, ma al momento stima il risultato della gestione ordinaria superiore ad 1 miliardo, un utile netto di gruppo superiore a 300 milioni e queste indicazioni sono inferiori rispetto alle stime che erano state indicate ad ottobre. Il gruppo taglia il dividendo per le azioni ordinarie, rimane solo la remunerazione per gli azionisti dei titoli di risparmio e questa appunto è stata la reazione del mercato rispetto a queste indicazioni. Il gruppo tra l'altro ha fatto sapere che è destituita di ogni fondamento anche la notizia e l'indiscrezione relativa ad un possibile aumento di capitale. Fatto sta che comunque la giornata per il titolo in borsa si preannuncia molto molto negativa. Tra gli altri titoli in ribasso, Fondiaria -5,26, Unipol -2,79, STM -2,52, segno più su Tenaris +3,64, Prismian +2,89, Eni +2, Finmeccanica +1,69, Mondadori +1,32. C'era un rimbalzo un po' più significativo poco fa per i titoli del settore bancario, anche questi adesso rallentano. Intesa +1,16, Ubibanca +1,12%. Però io lascerei la borsa per andare subito al tema di questa mattina. Siamo un pochino in ritardo sulla tabella di marcia, recuperiamo subito. Allora, sono usciti tanti risparmiatori, come sapete bene, dai fondi comuni di investimento nel corso degli ultimi 2 anni. Che tipo di soluzioni alternative hanno trovato? Molti stanno puntando su ETF e certificati. Ma che cosa sono? È una sfida che si gioca su tutte le principali borse mondiali, quella tra ETF e certificati, strumenti di investimento distinti, ma per certi aspetti molto simili. Compreso quello di essere stati in grado nei mesi scorsi di schivare gli effetti più devastanti della crisi finanziaria, continuando ad attirare l'attenzione, ma soprattutto i capitali dei risparmiatori in fuga dall'investimento azionario e dal risparmio gestito, che nel 2008 ha subito riscatti per 140 miliardi di euro. E le potenzialità di entrambi gli strumenti non sono di certo sfuggite alle banche pronte a collocare nel 2009 centinaia di nuovi prodotti di questo tipo. Ma come funzionano esattamente? Gli ETF sono una particolare categoria di fondi negoziati in borsa come semplici azioni, che replicano la composizione di un indice di mercato, settoriale, azionario o obbligazionario, e di conseguenza anche il suo rendimento. Una caratteristica quest'ultima in comune con i certificati, prodotti derivati il cui valore dipende da un sottostante come ad esempio un indice di borsa. Ma gli elementi in comune non finiscono qui. Sia ETF che certificati godono infatti di commissioni di gestione molto basse, comprese tra lo 0,1 e 0,4%, contro lo 0,5 e il 3% circa che grava invece sul patrimonio dei fondi comuni. E se a favore dei certificati gioca il fatto di godere di un migliore trattamento fiscale, gli ETF hanno il pregio di non essere esposti al rischio emittente, fattore quest'ultimo quanto mai apprezzato alla luce dei recenti crack finanziari. L'unico elemento che fino all'anno scorso differenziava i due prodotti riguardava la durata temporale dell'investimento. Gli ETF, come i fondi comuni tradizionali, possono essere mantenuti in portafoglio a tempo indeterminato. I certificati, invece, essendo prodotti derivati, hanno una scadenza. Ma anche questa differenza è destinata a cadere perché alcune banche, come UniCredit, hanno iniziato ad immettere sul mercato i cosiddetti certificati open-end, privi cioè di scadenza. 800 24 0024 è il numero verde per i vostri interventi, 349 238 6666 il numero invece per i vostri messaggi. Buongiorno e ben ritrovato a Salva Danaio, a Marcello Kelly, responsabile dei prodotti quotati di Société Générale in Italia. Buongiorno. Quanti ETF di casa vostra troviamo in borsa italiana? Ne troviamo 77. Credo che siate il gruppo che ne ha emessi di più. Diciamo che ce ne sono altri che hanno emessi di più. Abbiamo la leadership per patrimonio in Italia e per controvalore. Abbiamo più o meno la metà del mercato appartiene ai nostri ETF. Ben trovato invece a Salva Danaio a Christophe Grosset, mi perdoni la pronuncia pessima francese, probabilmente responsabile per l'Italia dei prodotti quotati di UniCredit Market e Investment Banking. È la divisione del gruppo UniCredit che si occupa di certificati. In questo caso i certificati sono quotati in uno speciale, particolare listino di Piazza Affari che si chiama SEDEX e UniCredit è una dei 17 emittenti di Piazza Affari di certificati. Ho detto tutto correttamente? Esatto, è un mercato che esiste ormai da una decina d'anni, che era prima concentrato molto su strumenti a leva, che adesso si orienta molto su soluzioni di investimenti a medio termine. Si potrebbe notare che da ottobre dell'anno scorso è stato lanciato un nuovo segmento sul mercato TLX che si chiama CertX e che è dedicato anche a questi strumenti, dunque mettiamo anche concorrenza sulle piazze di negoziazione. Quindi insomma l'offerta si è ampliata nonostante il momento di borsa non particolarmente felice, diciamo, per l'investimento tradizionale. Allora andiamo subito ad esplorare magari proprio questo aspetto. Marcello Kelly, quali ETF hanno ottenuto nell'anno nero della borsa i risultati più soddisfacenti? La particolarità del 2008 rispetto al 2007 è sicuramente l'entrata fra i top 10, diciamo, ETF, degli ETF a leva e degli ETF short in quanto a negoziazioni, nel senso che vista la fortissima volatilità c'erano molti investitori che andavano alla ricerca di strumenti di trading efficienti, l'hanno trovati nei leverage, quindi con leva tipicamente 2, e negli short che danno... ci può tradurre cosa vuol dire leverage con leva tipicamente 2? Sì, vuol dire che con la stessa quantità di denaro si prende esposizione non sull'indice, non so, S&P MIB, ma sull'S&P MIB avendo due volte il rendimento dell'S&P MIB, sia in positivo sia in negativo. Quindi con una minore quantità di denaro si può ottenere una maggior leva. E poi gli short che invece permettono all'investitore di prendere, nel momento in cui investono nell'ETF, di prendere non una posizione rialzista ma ribassista. Mm-hmm. Ecco, tra l'altro da quello che ho potuto apprendere documentandomi un po' sull'argomento è che di ETF short non ce ne sono comunque molti a Piazza Affari, sono più quotati a Wall Street per esempio, o mi sbaglio? Diciamo che gli ETF short hanno un problema, nel senso che a parte le fasi negative di mercato non riescono a raccogliere moltissimo in termini di patrimonio, perché hanno appunto una finalità più di trading, quindi non si rimane investiti, per cui gli ETF che hanno successo nello short sono tipicamente quelli sul DAX, sull'Eurostock 50, sull'S&P MIB, gli altri hanno difficoltà a, diciamo, a fermarsi. Ecco, Christophe Grosset, anche per quello che riguarda la dinamica dei certificati è stato possibile, puntando su questi strumenti, guadagnando in una fase di mercato che è stata invece completamente negativa? Sì, nella misura che nella quale un certificato è uno strumento che cercherà di portare qualcosa in più rispetto a un investimento azionario classico. Potrà essere la diversificazione, come si può tentare con i benchmark open-end, dunque lì si va a cercare un altro mercato. Ma soprattutto i certificati offrono anche, e lì parlo più dei certificati di tipo equity protection, offrono la possibilità di investire in borsa avendo una protezione garantita durante tutta la vita del titolo. Questa protezione costa, per esempio, per il sottoscrittore di questo investimento? Allora, i certificati sono strumenti molto convenienti, nella misura in cui non ci sono in genere commissioni di gestione annuale. Nel caso dell'equity protection si viene garantito un livello fisso durante tutta la vita del prodotto che sotto il quale anche se l'azione o l'indice scende sotto questo livello l'equity protection lei si ferma, dunque viene garantito l'ammontare investito. a contrario, cioè non vengano pagati i dividendi. Siamo in una fase dove i dividendi stanno comunque scendendo, dunque non è un gran problema, dice lei, in questo momento. Questa, per esempio, che è una delle differenze con l'ETF, che invece reinveste i dividendi. Assolutamente, l'ETF deve distribuire agli investitori o trattenere nel patrimonio dell'ETF, ma sempre a vantaggio degli investitori, tutti i dividendi staccati dalle azioni sottostanti. Quindi è una forma di trasparenza nei confronti dell'ETF. Quello che cerca di fare l'ETF è anche avere un miglior trattamento fiscale. Ci sono una serie di metodologie per riuscire a avere minori ritenute alla fonte, cioè withholding tax, nei paesi dove vengono staccati i dividendi. Sapevo che prima o poi questa parola sarebbe uscita nella trasmissione, il tema della fiscalità, e siccome io faccio molta fatica a fare domande su questo tema, lo lascio fare agli ascoltatori. Marco dalla provincia di Verbania, benvenuto a Salva Danaio, ad inaugurare le nostre chiamate. Pronto? Sì, sì, buongiorno, sì. Grazie per avermi ospitato. Grazie a lei, Marco, ci dica. Volevo parlare della fiscalità degli ETF. Sugli ETF si pagano le imposte sui redditi di capitale, e quello si paga senz'altro, e si paga anche le imposte sui redditi diversi, e di solito questi è difficile recuperarli perché continuiamo a avere dei grossi crediti con l'erario, e che consiglio è che ci può dare il vostro esperto per recuperare questi crediti che abbiamo? Ecco. Con quali altri strumenti è possibile acquistare, dato che con gli ETF non si possono recuperare i diversi? Con quali altri strumenti si possono recuperare queste minusvalenze? Marco, lei ci mette in mano una responsabilità enorme. Io spero di avere a disposizione dei ospiti preparati anche su questo, anche se di lavoro fanno qualcosa di diverso. Però Marcello Kelly, allora la parte... L'obiezione intanto ragionevole è quella mossa dal nostro ascoltatore? Sì, allora in ogni caso la tassazione per entrambe le tipologie di proventi è sempre il 12,5%. La parte maggiore, anzi preponderante se non quasi assoluta, è in termini di reddito di capitale. Il reddito diverso è una parte minore e che viene tassata allo stesso modo del reddito di capitale. Nel caso in cui uno avesse minusvalenze su questa parte, le può portare, diciamo nel caso di minusvalenze, le può riportare per i 4 esercizi successivi e le può compensare con plusvalenze realizzate sugli strumenti su cui effettivamente possono fare plusvalenze, come per esempio le azioni. Per quello che riguarda invece la fiscalità del certificato, Grosse, come siamo messi? Beh, il certificato diciamo che è un veicolo da questo punto di vista che è molto flessibile, perché sul certificato immaginiamo un investitore che abbia in portafoglio due certificates, uno sul quale viene generato un profitto e un altro sul quale c'è una perdita, lì si può compensare completamente il guadagno con la perdita, e non solo per una variazione ma per l'intera variazione. Questo è il vantaggio, che si può anche replicare. Immaginiamo che uno purtroppo ha investito su un certificates benchmark, sta perdendo, però da un altro conto ha guadagnato sulle azioni e può anche lì compensare completamente. Dunque lì siamo in una struttura che è molto flessibile e conveniente per un investitore individuale residente quindi in Italia. Quindi l'idea qual è? Quella generalmente di comprarne due? No. Magari che operano su mercati completamente diversi, perché sia questa possibile compensazione di una fiscalità? Allora, l'idea di base, infatti, che è qui si pongono i certificates, di avere un profilo di rischio diverso di investimento azionario, dunque di cercare diversificazione. Si può fare con i benchmark, andando a cercare performance sulle materie prime, su paesi emergenti, paesi dell'Europa, o strategie diverse come le select dividends, le strategie short, diciamo un ampio tipo di teme, o si può, come lo dicevamo, utilizzare quelli che hanno direttamente la protezione, lì limitare il suo rischio. Ecco, ma per compensare la fiscalità, qualora un prodotto ci desse dei risultati soddisfacenti in termini di rendimento, un altro andasse in perdita, devo prenderli comunque dallo stesso emittente, oppure posso anche prendere due prodotti da due emittenti diversi? In questo caso posso lo stesso avere la stessa compensazione? Sì, che possono essere da emittenti diversi. Anche se si guadagna su un certificate benchmark, ma si perde purtroppo su un investimento azionario classico, si può compensare. E lo so che usa la parola purtroppo. Purtroppo quest'anno penso che sia capitato a molti. Dunque, c'è un ascoltatore che chiede: posso fare un pack con gli ETF? Kelly, per lei che ha fatto tante trasmissioni sugli ETF con me, anche questa lo sa benissimo. Dopo la fiscalità è l'altra domanda molto ricorrente. Sì, un piano di accumulo si può fare. Assolutamente, il piano di accumulo vuol dire semplicemente fare in modo di investire una quantità di denaro con una periodicità costante, non so, ogni mese, ogni tre mesi, in modo da avere momenti di entrata diversificati e non avere un rischio di cosiddetto market timing, cioè entrare nel momento peggiore del mercato, cioè sui massimi. Questo impedisce anche di entrare sui minimi, però diciamo si preferisce avere questa media. Ci sono, fino adesso uno doveva impostarlo autonomamente, cioè ricordarsi, non so, trimestralmente di mandare l'ordine di acquisto. In realtà ci sono un paio di intermediari almeno, cioè Fineco e Vbank, che offrono pack automatizzati. Mm-hmm. Quindi si in una mascherina si inserisce le caratteristiche del proprio pack, cioè gli ETF sottostanti, la periodicità, gli importi, e automaticamente viene fatto l'investimento. Ci sono due ascoltatori pronti ad intervenire. Sono Carlo da Brescia che aspetta un po'. Carlo, lei ha aspettato tanto, le chiedo ancora qualche minuto. Vorrei farla slittare alla seconda parte di Salvadanaio, perché voglio focalizzare negli ultimi 30 secondi che ci rimangono prima della pausa l'attenzione su un aspetto che invece ci solleva Gianni da Bolzano. Gianni, ma in realtà io su questo punto che ci vuole indicare lei è caduto? Allora manteniamo la suspense. Gianni voleva porre un tema molto importante relativo alla differenza fra ETF e certificati, cioè il rischio emittente. Allora anche Gianni lo facciamo slittare, lo recuperiamo nella seconda parte di Salvadanaio. Eccoci ritrovati a Salvadanaio. Questa mattina stiamo monitorando le tendenze degli risparmiatori o degli investitori che magari hanno un profilo di rischio un po' più aggressivo della, come dire, della massa, della media. Abbiamo notato negli ultimi 24 mesi almeno quanti risparmiatori siano usciti dai fondi di investimento tradizionali. Molti risparmiatori, molti di questi o hanno deciso di mantenere il proprio portafoglio completamente liquido, magari scegliendo il conto di deposito, ne abbiamo parlato ieri. Altri invece stanno puntando su altri strumenti di investimento che magari permettono loro appunto di ritornare in borsa, e c'è un gran consenso in questo momento, anche se non è che siano poi strumenti facilissimi da comprendere, lo abbiamo preso nella prima parte della trasmissione. Stanno puntando appunto su ETF o certificati. E quindi cosa sono questi strumenti, come funzionano, che tipo di fiscalità hanno, sono tutti dubbi che stiamo cercando di sciogliere questa mattina. Grazie anche alle vostre domande all'800 24 00 24. Prima c'era sfuggito, lo abbiamo ripescato. Gianni da Bolzano. Sì, buongiorno. Buongiorno. Niente, volevo fare innanzitutto una piccola precisazione, anche perché non se ne parla mai abbastanza, che la differenza fondamentale poi che c'è tra ETF e fondi comuni da una parte rispetto ai certificati è rischio emittente, che nei primi due casi non esiste, mentre nel caso dei certificati mi sembra che esista. Esattamente Gianni, io la ringrazio, perché tra l'altro questo è un punto che ci eravamo prefissi di affrontare con i nostri interlocutori di questa mattina. Christophe Grosset, lei si occupa di certificati, questo è un punto molto importante, quello che sottolineava Gianni. Per il certificato c'è il rischio emittente. Sì, c'è il rischio emittente sul certificato. C'è da vedere che comunque un certificate dipende anche dalla forma dell'investimento, una struttura molto flessibile, dunque ci poniamo con questa struttura l'obiettivo di poter essere molto reattivi alle tendenze di mercato. Essere reattivi vuol dire fare uscire al momento giusto lo strumento che serve. In questo momento abbiamo lanciato molti strumenti a protezione, questo abbiamo potuto farlo in ottobre e novembre quando serviva. No, tanto per far capire magari agli ascoltatori che non lo hanno compreso che cos'è il rischio emittente, qualora la banca dovesse fallire, un po' come il pronto controtermine a volte, no? Come dire, questo prodotto se ne va dietro con la banca, quindi il risparmiatore corre il rischio di rimanere a bocca asciutta. Però qui a microfoni spenti ci stavamo anche un po' interrogando su questo argomento. Marcello Kelly qua torna, adesso parleremo anche del rischio poi dell'ETF, che non è legato invece a chi lo emette. Torna poi però il tema che è un po' al centro delle preoccupazioni ancora di molta gente che non sa bene che strada far prendere al proprio risparmio, cioè il tema che nella banca a cui si va a chiedere consulenza fallisca, no? C'è ancora questo grado di preoccupazione, anche se abbiamo rassicurato molto spesso sul fatto che adesso insomma i governi sono in grado di mettere in campo ogni tipo di iniziativa possibile per fare in modo che questo non accada. Sì, diciamo che il rischio di controparte è venuta alle cronache recentemente ed è stato compreso appieno dagli investitori. Questa è una cosa positiva. Le soluzioni tradizionali a questo tipo di rischio sono i fondi comuni di investimento, che sono investiti in una pluralità di titoli, quindi hanno un patrimonio segregato che non segue la vita dell'emittente. Dato che gli ETF sono dei fondi comuni di investimento, hanno questa prerogativa di non legare l'investimento a quelle che sono le peripezie dell'emittente stesso, del gruppo bancario di riferimento. Quello che si potrà vedere in futuro è magari vedere anche certificati o altri strumenti collateralizzati, quindi dove ci sarà una garanzia dell'emittente e in più un collaterale a garanzia nel caso in cui l'emittente possa in qualche maniera venire meno ai suoi obblighi. Naturalmente la collateralizzazione ha un costo, certo, però a mio avviso, se mai venissero lanciati questi prodotti collateralizzati, adesso la gente capirebbe il motivo per cui si paga un determinato costo, e per avere un'assicurazione. Tra l'altro, no, stavo riflettendo anche sul fatto che da quando 6 anni fa sono nati gli ETF, sono stati portati sul mercato italiano, 2002, sì. Esatto, quindi quasi 7 anni, ed erano nati come degli strumenti molto semplici che replicavano fedelmente gli indici di riferimento, la borsa italiana, i principali indici europei. Adesso invece ne abbiamo una marea che vanno a replicare ogni tipo di sottostante. Siamo arrivati anche alle materie prime, alle valute, alle obbligazioni di qualsiasi natura, che è lì. Forse questo vale anche per i certificati, poi magari facciamo il paragone. Partendo però dagli ETF, l'offerta è diventata notevolissima, enorme, perché basti pensare che in Italia sono 279 gli ETF e 2600 nel mondo, quindi poi alla fine soprattutto quelli, gli emittenti che sono entrati successivamente, hanno dovuto cercare nicchie di mercato e quindi su sottostanti magari non già coperti. È vero che diciamo determinate mode di investimento non possono essere coperte dagli ETF, perché l'ETF è per sua definizione uno strumento che non ha scadenza, quindi non possiamo avere il rischio di creare uno strumento su un sottostante che di qui a 3-5 anni poi non avrà più la capacità di raccogliere patrimonio. Quindi si lascia più il certificate questa capacità di andare incontro a... Sulla differenza fra certificate e ETF aggiungo solamente la parte relativa al market making, che secondo me è molto importante, nel senso che sugli ETF, essendo poi rivolti a un pubblico prevalentemente istituzionale, non lo indirizziamo, tipicamente non vengono indirizzate sui privati, bisogna assicurare un multi market making, quindi più soggetti che fanno quotazioni, quindi e che garantiscono la liquidità dello strumento, e soprattutto garantiscono anche l'arbitraggiabilità dello strumento. Quindi questo vuol dire che il market maker non può esporre quotazioni diciamo non in linea con quello che è il prezzo fair dello strumento, perché altrimenti altri soggetti lo arbitraggerebbero. Faccio un esempio, i nostri, sì, esatto, per maker, tradurre un pochino, sì, anche insomma per dire, i nostri strumenti sono supportati da Unicredit, da Société Générale, da Banca IMI, da Bucks Bank, e poi ci sono una serie di altri soggetti come Susquehanna, Van der Molen, Timber Hill eccetera, che sono delle piccole investment firm tipicamente o inglesi o olandesi, che fanno dell'arbitraggio il loro business principale. Quindi questo vuol dire che costringono in qualche maniera i market maker a svolgere una quotazione corretta e efficiente. Ecco, insomma, un meccanismo dietro le quinte che a noi sembra estremamente complicato, che però in realtà ci garantisce un aspetto che molti ascoltatori stanno sollevando al 349-238-6666. Qualcuno ci sta dicendo: in momenti difficili di mercato l'ETF è difficilissimo da vendere. Teoricamente, in base a quello che ci sta dicendo lei, questo non dovrebbe essere vero. No, adesso molto velocemente, gli ETF sono liquidi, nel senso che solo nell'anno scorso hanno scambiato solo su borsa italiana 50 miliardi di euro. L'ETF più scambiato è il nostro Eurocash, che è l'ETF di liquidità con 6 miliardi di euro, e sono grosse importi. Naturalmente la liquidità dell'ETF è legata alla liquidità del sottostante, cioè non si crea liquidità, per cui se è liquido il sottostante sarà liquido anche l'ETF, quindi è più facile dare liquidità a un Eurostock 50 che non a un Taiwan. Allora sentiamo invece Renzo da Pistoia. Renzo, io tra l'altro le ho bruciato la domanda, non mi ero accorta che fosse già in linea, però lei ha qualche dubbio su questa liquidità? No, qualche dubbio. Ho incontrato difficoltà a vendere degli ETF della Société Générale dell'Ixor. Proprio il loro. Ecco, e a parte il fatto che hanno avuto una debacle anche loro quando ci sono stati problemi alla banca. E poi non soltanto... vabbè, Jérôme Kerviel e tutta quella storia là di un anno fa. Esatto, e poi non soltanto dei Ixor, anche avevo delle Xinhua China, roba di per venderle poco per volta... sono riuscito a farli fuori, perché volevo fare delle altre operazioni. Li ha fatti fuori. Quindi esatto. Renzo, insomma, lei ha fatto un po' di difficoltà a uscire, a chiudere queste posizioni. Adesso ci faccio riflettere un attimo Marcello Kelly, però non vorrei far pensare che sono poco ospitale a Christophe Grosset. Ho anche una domanda per lui. Faccio fare la domanda a Carlo da Brescia, che aspetta da un po', così dopo i suggerimenti per chi è in viaggio rispondiamo ad entrambi. Carlo. Sì, buongiorno, volevo sapere velocemente l'orizzonte temporale dei certificati con protezione tipico e se ne esistono anche a breve termine, quindi 6 mesi, un anno, e quanto consiglierebbero più o meno in un portafoglio da quanto inserire in questo strumento. Rimettiamoci le cuffie, allora metto un attimo in stand by Marcello Kelly per andare invece di nuovo sui certificati con Christophe Grosset e per rispondere alla domanda di Carlo da Brescia. Se ci ricordiamo la domanda, l'orizzonte temporale degli open end, cioè di quelli che hanno non una scadenza ma di quelli che teoricamente... appunto non che teoricamente, che dovrebbero adesso riaprire insomma un po' la dinamica del funzionamento del prodotto. Allora, il certificato si posiziona a metà tra un investimento di breve termine in borsa e un investimento di fondo di portafoglio. La durata ottima, diciamo, per quali sono designati questi strumenti, non li parlo più di quelli a protezione, sono da 18 mesi a 2 anni, dunque è una durata intermedia. È da vedere che andiamo sempre con i certificates a cercare il tema del momento. Un mercato molto, molto ampio, perché in Europa siamo più o meno su 500.000 di certificati esistenti, dunque è già molto sviluppato. Ecco, anche il certificato presidia ogni segmento di mercato, dalla borsa all'obbligazione societaria, il titolo di Stato, le materie prime? Sì, come abbiamo un'ampiezza di sottostanti notevole, e direi che il fatto, e questo è stato sottolineato, un certificate è un strumento che possiamo fare veloce, dunque sul quale possiamo anche andare a cercare un tema del momento. Quello che tira in questo momento, possiamo fare un certificato, il che sarebbe un po' più difficile da fare come ETF. C'è il taglio minimo di investimento per un certificato? Beh, in genere un certificate, mettiamo che un certificate vale da 10 a 100 euro, dunque è veramente limitato. Un investimento che si può fare. Per l'ETF lo stesso, le faccio la stessa domanda, Kelly, poi andiamo alle difficoltà di Renzo da Pistoia. Per il taglio minimo dipende dallo strumento, va dai 5 ai 200 euro più o meno. Allora, perché Renzo non riusciva, vabbè, quando sono capitate le disavventure di Societe Generale un anno fa, no, era anche abbastanza... Non hanno avuto alcun tipo di impatto. Perché le due cose sono completamente scisse, stiamo parlando di Societe Generale, stiamo parlando di Lyxor, sono due società comunque distinte. Per quanto riguarda la capacità di continuare a dare liquidità, questa dipende solo dalla capacità di continuare per il market maker di poter acquistare il basket di titoli sottostanti o di poter vendere il basket di titoli sottostanti per poter fare sottoscrizione e rimborsi dell'ETF. Può sembrare un tecnicismo, ma è sufficiente che rimanga questa capacità e è possibile dare liquidità all'ETF. Quindi questa capacità non è mai venuta meno in Societe Generale, che è naturalmente un market maker captive, e non è mai venuta meno nei tre market maker non captive, come dicevo prima, sono Unicredit, Banca Emi e Abax Bank. Quindi mi sembra difficile pensare a quattro market maker che contemporaneamente vengono meno di loro obblighi. Ricordo che la divisione di vigilanza di Borsa Italiana monitora i nostri obblighi, abbiamo obblighi sanciti da Borsa, quindi da Consob, di quantità, di spread massimo bidask, e abbiamo un obbligo di risposizione in caso si sia applicati. Ricordo, solo per dare un esempio molto forte, che quando la Russia ha chiuso per più giorni per grossi motivi di liquidità, di crollo dei mercati, Societe Generale e gli altri market maker hanno continuato a negoziare, che vuol dire che il market maker si è preso un rischio puro di mercato e di cosiddetto di inventory, cioè di approvvigionamento dei titoli, e ha comunque continuato a dare liquidità al mercato. Noi potevamo chiedere a Borsa Italiana di sospendere i nostri obblighi di quotazione, invece abbiamo continuato a quotare. Questo è il caso più eclatante in cui abbiamo dato noi ai nostri market maker liquidità in un momento estremamente difficile. Ci sono degli ascoltatori, adesso io non vorrei che questa trasmissione fosse, come dire, che si avesse la percezione dall'esterno che stiamo dipingendo tutto il meglio di questi prodotti di investimento. Sono prodotti di investimento che permettono di ottenere determinate soddisfazioni, come capita per altri, bisogna però conoscere molto bene la dinamica per non avere sorprese, il funzionamento della fiscalità e quant'altro, quindi ovviamente le oscillazioni di mercato questi prodotti le subiscono completamente, per cui non è che ci si guadagna solamente, sono prodotti magari più semplici di altri, però da quello che abbiamo capito questa mattina non è che sia poi così che ci possa essere un approccio esattamente molto semplice anche per chi soprattutto con la finanza non si muove con grande semplicità. Tra l'altro c'è un ascoltatore, anzi sì, Loris, che ci chiede di poter capire qualcosa di più rispetto a questi strumenti? Come mi posso documentare? Beh, intanto sul sito di Borsa Italiana magari qualche e lei lo sa bene che è lì, perché sì, il primo ha passato in quella società, passato in quell'ambito, per cui che è www.borsaitaliana.it/ETF+. E poi magari, insomma, se si documenta su tutti quanti gli emittenti di questi prodotti, magari può andare a fare un po' un confronto fra le varie tipologie. Abbiamo Franca dalla provincia di Reggio Emilia. Buongiorno. 800 24 00 24 è ancora il vostro numero verde per poter continuare a prenotare le vostre telefonate. Ci buongiorno. Dica. Pronto? Sì, Franca, siamo qui. Buongiorno. Senta, io volevo chiedere un parere, perché nel 2007 ho comprato delle ETF Cina e India, e che andavano molto bene fino alla fine 2007. Poi ho cominciato a perdere, come si sa. E a questo punto io dico, ma come posso fare? Li vendo adesso o mi conviene tenerli? Franca, questa è una scelta che attiene rigidamente alle sue esigenze di risparmio e di investimento. Adesso non è un momento felice di mercato, e siccome dal 2007 lei ha probabilmente comprato, Marcello Kelly, gli ETF sui massimi, così come erano posizionati i listini, è chiaro che ha subito tutto il crollo che è arrivato. Questa domanda permette di dare una doppia risposta. Esatto, più generale, diversifichiamo il nostro giardinetto degli investimenti. Sì, la asset allocation, diciamo che la centralità della asset allocation, cioè la capacità di diversificare gli investimenti, è stata ribadita. Se ne guardiamo al 2008, abbiamo un segno meno 40 sull'Eurostock 50, e gli unici segni positivi li troviamo sui titoli di Stato. E per quanto riguarda il suo caso specifico, noi non possiamo dare consigli di investimento, ma comunque rimaniamo, i nostri strategist rimangono molto abbastanza negativi sugli emerging market. Negativi sui mercati emergenti. Se ha un'ottica di lungo periodo, gentile signora, magari aspetti un po', non lo so, però certo che se poi si spaventa non appena dopo un anno che ha impostato il suo investimento, forse il mercato azionario non è esattamente quello che fa per lei. Bisognerebbe fare un'analisi un po' più approfondita della sua situazione. Tiziano da Milano, buongiorno. Buongiorno. Io ho sentito che state parlando di certificati, ho chiamato perché vorrei che non sono quelli del medico, per fortuna, Tiziano. Sì, certificati, certo, sì. No, ma non è che la prendevo in giro, ovviamente era così una battuta infelice, vabbè. Documentandomi qualche tempo fa ho scoperto che esistono certi quiz long e short. Sì. Ci sono alcuni utenti che appunto consigliano queste diversificazioni di strumenti. Allora io ho fatto un ragionamento e ho monitorato l'indice di Borsa Italiana. Ho visto che il sottostante di alcuni certificati, che era proprio l'indice di Borsa S&P della Borsa Italiana, e con un sistema di analisi tecnica molto semplice ed elementare mi sono messo con dei certificati in short dal maggio del 2007. Ad oggi portata a casa dei gran soldoni, immagino, Tiziano. Ma fa un guadagno di forti, insomma, una cosa molto interessante, anche perché i certificati, forse non è stato detto, hanno un effetto leva molto, molto significativo. E il bello dei certificati è che seguono pedissequamente l'indice, non hanno delle variazioni come vengono imposte dai market makers verso i cover warrants. Io con una certa sicurezza so assolutamente in quale direzione il certificato si muove. Sì, certo, Tiziano, adesso in questo periodo non si fa che sentire che si perdono soldi. Sì, sì. Io ho avuto la fortuna invece di non perdere. Infatti, no, Tiziano, in realtà questo è stato proprio il presupposto della nostra trasmissione. Guardate che poi non tutti ovviamente hanno subito questo tracollo di borsa che sta andando avanti da molti mesi. C'è chi ha avuto la lucidità, ma anche la preparazione, aggiungo, di utilizzare altri strumenti per scommettere anche al ribasso. Non perché con questo vogliamo incentivare per forza l'utilizzo di questi strumenti. L'approccio di Tiziano, però, di una persona estremamente preparata che con pazienza guarda anche attraverso l'analisi tecnica come potrebbero muoversi i mercati. Infatti sui certificates andiamo a coprire tutte le strategie possibili, dunque che va dal trading, come il nostro ascoltatore, al strategia più medio termine. Importante in questo modo, e lì completerei cosa abbiamo detto sulla l'ascoltatrice precedente, è importante capire bene su che tipo di strumento si sta investendo, non solo concentrati sul prodotto, ma vedendo l'adeguatezza rispetto al portafoglio complessivo. Noi abbiamo messo a disposizione sul nostro sito, che è investimenti.unicreditmin.it, un insieme di informazioni naturalmente su tutti i nostri prodotti, immaginate, certo, però soprattutto sul mercato e anche strumenti per gestire il suo proprio portafoglio. E credo che sia lì importante. Nel mondo dell'investimento non ci sarà mai un miracolo, dunque bisogna trovare il prodotto che fa per sé. Lì siamo davanti a un'ampienza di strumenti che permettano più o meno di realizzare tutte le strategie, con protezione, con effetto leva, con diversificazione. Importante capire che questi strumenti certamente sono liquidi, l'abbiamo detto, sono convenienti perché hanno commissioni di gestione di zero o molto basse. E no, però... poi hanno anche il taglio di investimento contenuto, per cui se qualcuno è proprio tentato, no, di approcciarsi a questi strumenti di investimento, lo può fare con una certa gradualità e vedere se poi fa al caso proprio. L'ultima domanda, Marco da Vigevano, ma in 10 secondi la deve fare. Sì, si corre il rischio di cambio se si compra un ETF americano, giapponese, cinese? Marco, grazie. Kelly? Sì, assolutamente sì, perché non sono coperti dal rischio di cambio. Comunque il prezzo che lei trova in euro su Borsa Italiana sconta già il rischio, o diciamo il guadagno di cambio, quindi se lei compra 100 e vende 110 sa che effettivamente ha fatto più 10%, poi può eventualmente spacchettare questo più 10 fra, non so, più 3% di tasso di cambio e più 7 invece movimento dell'indice. Anche per il certificato vale lo stesso discorso, Grosset? Allora, per quelli quotati in euro sì, quelli che hanno la funzionalità cosiddetto quanto, beh, sono protetti del rischio di cambio. Un'ultima ascoltatrice, 10 secondi, ci scrive Gina al 349-238-6666: la banca mi sconsiglia ETF perché poco negoziati. Gina, non avevamo dubbi, sicuramente la banca sarà più interessata a venderle magari l'obbligazione di casa propria e non un prodotto che costa poco come l'ETF. Insista, perché secondo me invece la giustificazione non è valida. Grazie a Marcello Kelly, a Christophe Grosset per essere stato con noi. Sono riuscita a non chiamarlo mai Filippo, come avevo fatto invece ieri al telefono. Grazie ancora per essere stati con noi. Noi torniamo naturalmente anche domani a Salvadanaio e ritorniamo sul vostro tema preferito, i mutui. A domani.